Vieni Signore ad aprire cuore. Vieni Signore, insegna ad amare. Mostrati al mondo, rivelati. Vieni Signore ad aprirmi il cuore. Quello che vivo sia solo amore. Volgi il tuo sguardo, liberami. Sostiene la vita mia, voglio che in me sia fatta solo e per sempre, nient'altro che perfetta e immensa. Signore,